A mia volta ringrazio il collega Ronchi perché, come avete detto tu ieri sera, questo colloquio nasce da un incontro. Quindi, se fossi stata da sola, avrei fatto un colloquio su Plotino, avendo incontrato Bersoniano, e avrei avuto fuori un convegno di fronte. Allora, il tema che io tratto è il rapporto tra anima e corpo nel vivente, in particolare nel trattato 53esimo di Plotino, Ennea de Prima, trattato numero 1, che appunto ha per titolo Che cos'è il vivente e che cos'è l'essere umano, e che è stato appunto il trattato un po' ispiratore di questa iniziativa. Il rapporto con Bergson, di cui non sono assolutamente né specialista né conoscitrice, ma solo l'ammiro, diciamo, da ignorante, il rapporto con Bergson credo che sia, almeno nella mia mente, ma vorrò sentire i bergsoniani, il fatto che Bergson a un certo punto parla del rapporto tra appunto parla del corpo come di uno strumento e parla del rapporto tra mistica e tecnica, soprattutto nell'opera Le due fonti della natura e della religione del 1932, e un libro di Caterina Zampi mi ha sollecitato in questo senso, un libro che l'autrice ha dedicato qualche anno fa al tema della tecnica e della guerra in Bergson. Allora, in buona sostanza, quello che mi ha colpito è stato il fatto che, secondo questa autrice, ma ci sono qui ben più autorevoli bergsoniani, a un certo punto, cioè Bergson nell'evoluzione creatrice del 1907 vedrebbe il ricorso dell'essere umano, oltre che allo strumento naturale che è il suo corpo, anche allo strumento artificiale che si procura, che crea, come ciò che ha permesso un salto dell'intelligenza e quindi come qualcosa di un'opportunità, qualcosa di positivo, mentre dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, dopo ulteriori riflessioni, a un certo punto Bergson invece sarebbe più scettico verso la tecnica, perché se è una tecnica che produce armi, se è una tecnica che produce carri armati, eccetera, allora non le si può dare solo un valore positivo, ma è qualcosa che chiama un supplemento di anima per essere padroneggiata. E mi colpiva l'immagine di Bergson per cui attualmente l'umanità ha un corpo tecnologico enorme con un'anima minuscola, e per ricostituire l'equilibrio ci vorrebbe un supplemento enorme di energia dell'anima. E come dice anche Rocco Ronchi nel suo libro Bergson, una sintesi, forse l'umanità si dovrebbe addirittura costruire un nuovo corpo, riportando le parole di Bergson. Allora, tutte queste cose di Bergson mi hanno sollecitata a esplorare il rapporto anima-corpo in Plotino alla luce di un rapporto tecnico, in che senso, cioè l'anima è come l'artigiano che si serve del suo corpo come di uno strumento, e di verificare se questo rapporto anima-corpo come artigiano-strumento in Plotino è problematico, o se, come sembra invece a me, è problematico e in fin dei conti va superato. Va bene. Allora, io inizio, ora mi muovo nel terreno appunto della filosofia antica, ed inizio dalla lettura del primo testo sul vostro handout, che è un passo tratto dall'Alcibiade I attribuito a Platone. Perché questo passo? Perché è il passo fondatore nella filosofia antica della definizione di uomo, cioè di essere umano, maschio e femmina, come di un'anima che si serve di un corpo quale strumento. Quindi si inizia da qui. È un dialogo tra Socrate, il personaggio di Alcibiade. Leggo. Allora, dice Socrate, un essere umano, anthropos, io ho volutamente tradotto essere umano e non uomo per non dare una connotazione di maschio e femmina, perché sono entrambi. Allora, un essere umano si serve, ecco, lo strumento, anche di ogni corpo, e Alcibiade certo, e Socrate. E si diceva, nelle parti precedenti del dialogo, che una cosa è ciò che si serve, sottinteso di un'altra, e un'altra ciò di cui ci si serve, Alcibiade sì. Cioè, è stata fatta la distinzione concettuale tra chi si serve di qualcosa e quel qualcosa di cui ci si serve. E questa distinzione concettuale è stata accolta da Alcibiade, che ora la conferma come veritiera. Socrate, dunque, altra cosa è l'essere umano rispetto al proprio corpo? Così pare. Quindi, se una cosa è ciò che usa e un'altra ciò che è usato, allora Socrate trasferisce questa distinzione concettuale all'essere umano. Se l'essere umano è ciò che usa e il corpo è ciò che è usato, l'essere umano è diverso dal suo corpo. Socrate, che cos'è allora un essere umano? Alcibiade, non so dirlo. Socrate, puoi dire che è ciò che si serve del corpo. Alcibiade, sì. Socrate, forse qualcos'altro si serve di esso corpo se non un'anima? Non altro. Socrate, se ne serve comandandolo, sì. Conclusione, dunque, l'essere umano è l'anima. Qui vedete come il vivente, diciamo così, è veramente spezzato, cioè il corpo non è più parte di sé, della sua identità, è veramente quella cosa esteriore di cui si serve e che ha solo funzione strumentale. Questo perché Platone, o chi per lui un suo allievo, era interessato nell'Alcibiade I a porre il proprio dell'essere umano nella sua anima e a sollecitare la cura del sé, dove questo sé era identico alla propria anima. Plotino, come sempre, parte da Platone e poi lo trasforma. In uno dei suoi primi trattati, da cui è tratto il secondo testo dell'Handout, cioè il trattato 2 in ordine cronologico, che è l'Enneade IV, numero 7, al capitolo primo, il trattato sull'immortalità dell'anima, Plotino riproduce questa idea dell'Alcibiade I, che l'essere umano è essenzialmente la sua anima, l'anima avendo un ruolo di comando sul corpo e servendosi del corpo come di uno strumento. E nella frase che andremo a leggere di Plotino, poiché in Plotino c'è la confluenza storica e critica anche dell'insegnamento platonico e di quello aristotelico, troviamo sia l'affermazione dello strumentalismo platonico sia la concezione ilemorfica aristotelica, per cui appunto l'essere umano è materia e forma. Leggiamo il secondo passo. Plotino dice: ma ciò che è più proprio, sottinteso dell'essere umano, è lo stesso essere umano. Se in vero è questo, che abbiamo detto prima, si configura Questo è l'ilemorfismo aristotelico. Secondo, la forma come rispetto a una materia, cioè il corpo. Qui l'anima è la forma, il corpo è la materia. Poi arriviamo alla seconda parte, o che riprende la cipia del primo, o secondo ciò che usa come rispetto a uno strumento, che è ciò che è usato. Ora, nell'uno e nell'altro modo, sia nell'ilemorfismo sia nello strumentalismo, l'anima è l'essere umano stesso, cioè il cuore dell'essere umano, ciò che definisce in ultima istanza l'essere umano. Qui, quindi, Plotino sottoscrive alla Cibia del primo l'essenza dell'essere umano, il suo quid proprio è un'anima che si serve di un corpo come di uno strumento. Però Plotino, pur senza disconoscere mai a mia conoscenza apertamente nei suoi trattati questa idea dello strumentalismo della Cibia del primo, quando alla fine della sua carriera, almeno, cioè con il penultimo trattato, il 53esimo, quello sul vivente, lui si trova a dover spiegare l'unità del vivente, e qua lo strumentalismo gli sta stretto, perché lui cerca un'unità più profonda dentro il vivente, mentre lo strumentalismo esteriorizza il corpo rispetto all'anima e separa troppo queste due componenti. Motivo per cui quello che mi ha interpellato è che nel trattato sul vivente Plotino continua a parlare di un'anima che si serve di un corpo, però preferirà, per spiegare l'unità del vivente, parlare piuttosto di un'anima mescolata a un corpo, insomma, che si sono maggiormente fusi, maggiormente compenetrati quest'anima e questo corpo. E qual è il problema del trattato sul vivente? Il problema del trattato sul vivente è quello che Plotino espone all'inizio, quando dice: io voglio arrivare a capire chi è il soggetto nell'essere umano di piacere, dolore, paura, coraggio, percezione sensibile, azione etica e anche intellezione. E deve capire se il soggetto di queste emozioni, passioni, attività conoscitive e attività pratiche può essere l'anima da sola. Perché porsi questo problema? Se il quid dell'essere umano è la sua anima, e l'essere umano conosce, agisce, pensa, percepisce, prova dolore, allora dovrebbe essere in teoria solo la sua anima il soggetto di queste cose. Ma Plotino sa bene che nel vivente sarebbe impossibile dire che l'anima può, per esempio, vedere un oggetto senza la mediazione del corpo. Quindi un'anima separata, un'anima presa a sé stante, non può essere in un essere umano, che comunque è composto di anima e corpo, il soggetto che Plotino sta cercando. Là egli fa tre ipotesi: l'anima da sola non funziona a spiegare il vivente; seconda ipotesi è proprio l'anima artigiano che si serve del corpo come di uno strumento, ed è quello che andremo a leggere nel testo 3. Plotino però trova, ripeto, che questa idea di un'anima che che semplicemente si serve del corpo non spieghi bene la vita del vivente, la sua unità, e quando parla di questo tipo di anima si immette nella prospettiva dell'Alcibiade primo e anche del Teteto di Platone, nella prospettiva cioè del fatto che allora se è così è meglio che l'anima sia la più separata dal corpo, e in questo consisterebbe addirittura la filosofia, nel separare l'anima dal corpo, che significa su questa terra, finché viviamo qui non ne saremo mai separati, ci vorrà la morte del corpo a separarcene, ma cercheremo da filosofi di ridurre al minimo i bisogni del corpo e di ridurre al minimo l'attenzione che l'anima dedicherà ai bisogni del corpo, perché possa fare quello che le è proprio: conoscere, pensare, insomma non essere intralciata dai bisogni in abbondanza e senza limiti, se uno non gli mette limiti, del corpo stesso. Quindi a me sembra che anche la seconda ipotesi, quella dello strumentalismo, riporta Plotino piuttosto a una esortazione, a una separazione ascetica dell'anima dal corpo. È una terza ipotesi che però io non potrò analizzare qui perché a me interessa lo strumentalismo, è una terza ipotesi, quella che funziona a spiegare il vivente, ma forse ce ne parlerà Sylvain, peut-être se Sylvain qui va a parler de ça, ed è una maggiore sintonia e commistione, compenetrazione tra anima e corpo che spiega l'unità e l'attività del vivente. Allora, leggo il testo numero 3 di cui voi avete sul retro della pagina anche il testo greco tratto dall'edizione dell'edizione minor di Henrik Schitzer. Leggo e commento. Plotino dice: ma in effetti, questo è il trattato sul vivente, bisogna porre un'anima in un corpo. Questo incipit si spiega alla luce del fatto che egli ha ormai scartato l'idea che nel vivente umano sia l'anima da sola il soggetto della percezione, della conoscenza, dell'attività etica. Si manifesta la necessità di porre l'anima insieme a un corpo, essendo l'anima alla testa di esso, del corpo al comando, oppure in esso, dalla qualcosa, cioè dal corpo e dall'anima, l'entità intera fu chiamata essere vivente, zoon, riprendendo l'espressione del foro di Platone. Allora, qui dice Plotino: se dobbiamo spiegare il vivente, l'anima da sola non ci basta, dobbiamo avere un'unità di anima e corpo. Però introduce la visione dello strumentalismo. Leggiamo: allora, servendosi l'anima di un corpo come di uno strumento, essa anima non è costretta ad accogliere le affezioni che attraversano il corpo, così come gli artigiani non sono costretti ad accogliere le affezioni dei loro strumenti. Cioè, lo strumentalismo non spiega la comunanza tra anima e corpo, come il corpo possa comunicare con l'anima, ma spiega solo l'estraneità dell'anima a quello che accade nel corpo. Una tale estraneità è quella che c'è appunto tra un artigiano, un technites, che mettiamo servendosi di un martello: se il martello si rompe, non è che l'artigiano si rompe e prova dolore, cioè c'è proprio quest'idea di non trasferibilità delle affezioni, delle passioni del corpo all'anima. C'è quest'idea che ciò che accade allo strumento non necessariamente l'anima lo sentirà. ed è per questo che questo schema non va bene per il vivente, dove l'anima deve agire sempre, come dire, di consorzio con il corpo, non è l'estranea rispetto al corpo. Obiezione che Plotino si fa da solo in questo suo modo di pensare e di scrivere, in cui lui sia enuncia qualcosa, sia si produce l'obiezione. Ecco l'obiezione. Non di meno potrebbe darsi il caso che l'anima necessariamente accolga una sensazione, che è un fenomeno corporeo, se invero bisogna che essa anima si serva del suo strumento nell'atto di conoscere le affezioni che provengono dall'esterno a partire da una sensazione, perché servirsi degli occhi è appunto vederci. Ecco. Allora, un tale vuol dire a Plotino: senti Plotino, però quando avviene il fenomeno della vista degli oggetti sensibili esterni c'è un coordinamento tra il corpo e l'anima, perché è vero che gli occhi sono quello strumento con cui l'anima, diciamo, trae le informazioni sugli oggetti sensibili esterni visti, cioè c'è una comunicazione. In fondo gli occhi sono quell'organo sensoriale, quella parte del corpo che trasmette, permette di trasmettere all'anima delle informazioni ormai dematerializzate, per cui l'essere umano dice: sto vedendo quest'albero verde, eccetera. Quindi l'obiezione che viene fatta a Plotino è che nel caso, per esempio, della sensazione visiva, in realtà c'è una trasmissione di dati dall'organo corporeo all'anima, dagli occhi, dallo strumento all'anima stessa. Continua l'obiezione, ma ci saranno anche delle malattie circa il vedere, non sempre appunto gli occhi sono in buona salute, cosicché ci saranno tanto dei dolori quanto il fatto di soffrire, e in generale tutto ciò che si verifica in ambito corporeo, qualunque cosa si verifichi. Di conseguenza ci saranno anche dei desideri quando l'anima cerca la cura del proprio strumento. Cioè, dice l'obiettore a Plotino, dice: non solo gli occhi trasmettono delle informazioni all'anima nel processo della visione di oggetti sensibili esterni, ma per esempio se l'occhio si ammala trasmette all'anima la sensazione del dolore, e l'anima, diciamo, prova il desiderio di trovare una cura per sanare il proprio strumento visivo, per guarire gli occhi. Quindi l'anima non è, dice l'obiettore, così impassibile rispetto a ciò che avviene nell'organo corporeo. Insomma, non è vero che è proprio come un artigiano rispetto al martello che si spezza. Insomma, l'anima rispetto ai propri organi è coinvolta. Risposta di Plotino, che ribadisce invece l'impossibilità di comunicazione tra corpo e anima. Vediamo. Plotino dice: ma come, a partire dal corpo, le affezioni arriveranno all'anima? In effetti, un corpo comunicherà ciò che gli è proprio o ciò che gli sta accadendo a un altro corpo. Ma come un corpo comunicherà ciò che gli è proprio a un'anima? Tale è la differenza delle nature che c'è un gap incolmabile. Questo, dice Plotino, è l'equivalente di una situazione in cui una cosa subisce un'affezione, nel nostro caso mettiamo gli occhi si ammalano, e un'altra, l'anima, prova tale affezione, prova dolore e prova anche il cuore. Cioè, dice Plotino, successo di intesa la polemica contro gli storici, non c'è metadosis, cioè non c'è trasmissione se non da corpo a corpo, d'accordo, questo Plotino lo sottoscrive, però è vero l'inverso, se non c'è trasmissione di dati che da corpo a corpo, quando io ho due entità diverse per natura, non ho due corpi, un corpo, un'anima, allora non c'è la trasmissione, non passa, non c'è il canale comune. Quindi Plotino, forse senza argomentare più di tanto, forse in modo per noi insoddisfacente, però ribadisce anche dopo l'obiezione l'idea che siccome la trasmissione dei dati, delle affezioni, di qualunque cosa si dà solo tra entità della stessa natura, nel nostro caso da corpo a corpo, lì dove abbiamo invece un vivente costituito di corpo e anima, dal corpo le affezioni non passano all'anima, l'anima resta impassibile. E per confermare questo dato, Plotino appunto ricorre allo strumentalismo fino al momento in cui l'una, cioè l'anima, è ciò che usa, mentre l'altra, il corpo, è ciò che è usato. Qui è interessante perché lui non va nemmeno a scomodare, come invece l'ho detto io, la diversità di natura, gli basta la diversità di ruoli. Fino al momento in cui l'una, l'anima, è ciò che usa, mentre l'altra, il corpo, è ciò che è usato, le due cose si danno in modo separato. Del resto, le separa proprio colui che concede che ciò che usa è l'anima. Questo colui che concede, secondo me, è, diciamo, dall'Alcibiade prima in poi, se so che Alcibiade è colui che concede che è l'anima quella che si serve del corpo. Quindi, in buona sostanza, per riassumere, dato lo strumentalismo dell'Alcibiade primo, l'anima è impassibile e non coinvolta rispetto a quello che accade nel corpo, anche solo per differenza di funzione, perché è diverso ciò che usa rispetto a ciò che è usato. Plotino nel suo sistema potrebbe ricorrere a argomenti più forti, vi dicevo, cioè la differenza di natura, però lui ritiene sufficiente porre un rapporto di artigiano a strumento tra anima e corpo per dire che l'anima non è coinvolta in quello che accade al corpo, è impassibile rispetto ad esso. Ed è questo quello che apre la terza parte del trattato sul vivente, quello invece in cui si considera una maggiore simbiosi tra anima e corpo, e questo mi fa rivenire in mente delle frasi bergsoniane nei suoi corsi di filosofia antica, lì dove diceva: ricordiamoci sempre che per gli antichi, prima di Cartesio, il corpo non è così corpo, non è solo res extensa e l'anima così spirituale, ma erano più vicini di quello che da Cartesio in poi si verifica come un dualismo ben più radicale. E a me sembra che Plotino, in fondo, pur non, come dire, rinnegando mai lo strumentalismo dell'Alcibiade primo di Platone, tuttavia tacitamente usi un altro schema che non è quello dello strumentalismo per spiegare nel trattato sul vivente l'unità e il funzionamento del vivente. E però volevo sottolineare, e questo lo faccio con il passo di 4 nell'endout, come Plotino, se non arriva, per quanto riguarda l'essere umano, a rimettere esplicitamente in discussione lo strumentalismo dell'Alcibiade primo, lo fa per il livello del divino, lì dove, nonostante il peso reale o metaforico della figura del demiurgo artigiano del mondo nel Timeo di Platone, Plotino dice che che non è corretto immaginare che il Dio abbia prodotto l'universo agendo come un artigiano che si serva di strumenti. Cioè, l'immagine dell'artigiano ancora, diciamo, presente, anche se non più estremamente utile a descrivere l'anima umana, è però completamente tolta di mezzo quando si tratta di descrivere l'anima del mondo che produce il mondo e che certamente non lo fa come un artigiano servendosi di strumenti. E qui arriviamo a un punto in cui l'anima, come tutto ciò che è intelligibile, produce in modo estremamente più potente ed efficace di un artigiano, proprio perché produce per il suo stesso essere ed esistere, non deve fare. E questo mi porta a un altro, leggiamo però il passo e poi vediamo la connessione con Bergson, T4, Enneade quinta 8, il trattato numero 8 al capitolo 7, dice Plotino: ma non è possibile che colui che ha prodotto l'universo, cioè il demiurgo, e qui qualsiasi lettore di Plotino c'ha in mente il Timeo di Platone, pagina 27-30, ma non è possibile che colui che ha prodotto l'universo concepisca ciò, la posizione di tutte le cose nell'universo, le stelle lì, la terra là e compagnia, in tal modo, cioè l'artigiano, tramite un ragionamento posteriore alla cosa. Cioè l'artigiano, se vuole costruire, mettiamo un ingegnere che vuole costruire un ponte, si mette prima a tavolino a fare i calcoli e poi si volge all'azione. Ma per Plotino il Dio non ha bisogno, cioè non possiamo descrivere Dio antropomorfizzandolo così, significa abbassarlo, non ha bisogno del calcolo, è la mente umana che ha bisogno del calcolo. Poiché da dove gli verrebbe l'idea di cose che non avrebbe ancora visto? Per Plotino l'artigiano umano lavora per imitazione rispetto alla natura. Questo già l'aveva detto Platone in modo molto devalorizzante. Plotino lo dice in modo meno devalorizzante, ma la tecne, l'arte, i mestieri sono sempre un'imitazione della natura. Bisogna aver visto gli enti naturali e il loro funzionamento per concepire gli enti artificiali e realizzarli. Ma, dice Plotino, questo vale per l'artigiano umano che realizza gli artefatti avendo visto gli enti naturali. Ma il demiurgo del cosmo, diciamo, è lui che li produce gli enti naturali, quindi tutto questo processo di imitazione, di calcolo trasferito al Dio non ha senso. E continua: e se da un altro essere del demiurgo che gli viene questa concezione, non può realizzarla come oggi lo fanno gli artigiani, ecco qui ancora lo strumentalismo, servendosi delle loro mani e dei loro strumenti. Infatti è ben dopo la produzione del mondo che fanno la loro comparsa le mani e i piedi. Cioè l'artigiano, in queste ultime due righe, è colui che si serve sia degli strumenti organici sia degli artefatti da lui prodotti come strumenti. Quindi le mani e i piedi sono parti del suo corpo, sono strumenti organici di cui si serve. Tramite questi strumenti organici ha prodotto degli strumenti artificiali, degli artefatti, che ne so, i martelli, i trapani, le impalcature e compagnia, e l'artigiano umano quindi si serve di un doppio tipo di strumento, quello organico naturale e quello artefatto. Secondo Plotino, questo schema dello strumentalismo non vale per il demiurgo, perché il demiurgo assolutamente non si serve di strumenti e assolutamente non si serve di ragionamenti e compagnia. Quindi lo strumentalismo capitalismo, non esplicitamente rinnegato per l'anima umana, lo è però esplicitamente per il livello divino che produce l'universo. Ora io vorrei riagganciarmi a Bergson per un altro aspetto, sempre da sottoporre agli specialisti di Bergson, perché Bergson cita nel Mélange, ora dovrei ritrovare la pagina, quel passo dell'Enneade 30, Enneade terzo 8, in cui dice che l'azione è una contemplazione diminuita. Secondo me, perché questo è vero, lo cita, però, e ora vengo a un po' di ipotesi che non so quanto siano fondate o solo frutto di fantasia. Secondo me Bergson e Plotino in quel trattato poteva trovare anche l'inverso. Che voglio dire? Poteva trovare anche che è appunto l'anima contemplativa la più potente nell'azione, dove quindi l'azione non è vista come un déchet, quasi una degradazione della contemplazione, ma dove l'azione è somma lì dove c'è essere contemplazione più che fare. E questo mi riporterebbe a quell'idea che pare sia stata espressa da Bergson nelle due fonti, e cioè che la mistica comanda la tecnica e che ci vuole un supplemento d'anima per veramente essere efficaci nella tecnica piuttosto che esserne sopraffatti. E ora qui vorrei mettere un'ipotesi. Allora, i bergsoniani mi diranno, allora, io mi sono fatta questa impressione che Bergson abbia avuto come compagno di viaggio Plotino dagli anni del suo insegnamento, gli anni 80, che sia il dell'Ottocento al liceo di Clermont-Ferrand, che sia ai corsi dati al liceo Enrico IV, che sia poi ai corsi di filosofia antica su Plotino al Collège de France, nell'evoluzione creatrice, anche se non lo cita, però c'è, insomma, che Plotino sia stato il compagno di viaggio di Bergson fino alla prima guerra mondiale, e che poi dalle conferenze di Madrid del 1916 in poi in qualche modo abbia cessato di essere il suo compagno di viaggio, e che Bergson abbia invece piuttosto attinto al lessico e all'immaginario della tradizione cristiana, e che quindi quando dalle conferenze di Madrid del 16 parla della Spagna come di un paese che non è seconda alla Francia nella filosofia, perché ha prodotto dei mistici, e mistici come San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila e compagnia, lui forse comincia a lasciare Plotino. Perché? Perché dico che comincia a lasciare Plotino? Perché le cose che poi forse dice fino alle due fonti, di queste cose lui potrebbe trovare benissimo un corrispettivo in Plotino, ma sembra non andarle a cercare lì, mentre sembra attingere di più al patrimonio dell'esperienza del lessico cristiano. Però questa è un'ipotesi veramente che non so che senso possa avere. Vi ringrazio. Grazie tantissimo a Angela Longo per questa esposizione.